Afghanistan, reparti maternità e funerali sotto attacco. Covid-19, i sondaggi, la fiducia e i voti ai leader. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Meanwhile, a hospital in the capital, Kabul, it's also come under attack. Explosions and gunfire have been heard there. A lot of the arguments about why government should be smaller or more limited have fallen away in this time. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, una nuova puntata per volgere lo sguardo su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Lo faccio come ogni giorno con Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Claudia Schiattoni in assistenza e Carmelo Lauricella che ritroviamo in regia. 349-238-66 è il numero per SMS e WhatsApp per domande e commenti e, perché no, anche critiche, sempre nel rispetto della buona educazione, l'assenza di razzismo, di commenti sessisti, per il resto liberissimi di dire la vostra su che cosa. Due sono i temi che toccheremo: da un lato il rigurgito di violenza che sta attanagliando l'Afghanistan, paese che raccontiamo molto molto di frequente ultimamente qui a Nessun Luogo Lontano. Paradossalmente c'è stato un attacco da una parte in un luogo in cui si dona la vita, reparto maternità di un noto ospedale di Kabul gestito da Medici Senza Frontiere. Dall'altro, a Jalalabad, quindi lontano dalla capitale, un attacco lì dove c'era l'estrema, l'ultima liturgia proprio per i morti, per i caduti, e lì un attacco kamikaze ha fatto altre decine di morti. Che cosa significa tutto ciò? Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nella seconda invece vi proporrò un'interessante riflessione che trae spunto da due sondaggi, uno di Ipsos Europa e uno dell'Australian Institute, che è andato sostanzialmente a dare i voti a come i leader mondiali hanno gestito il Covid-19. Detto ciò, la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. E c'è qualcuno che già senza mezzi termini definisce l'Afghanistan il fallimento totale degli Stati Uniti e della NATO. Dicevo, dossier internazionali. Il primo ci porta in Israele. Il prossimo 14 maggio, giovedì, il nuovo governo di emergenza nazionale guidato dal premier Benjamin Netanyahu e dal suo ex avversario, ormai dobbiamo definirlo così, Benny Gantz, giurerà. In un primo momento i due avrebbero dovuto giurare il 13 maggio. Il rinvio di un giorno pare da attribuirsi all'arrivo in Israele del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, che vedrà sia Netanyahu che Gantz. Secondo le indiscrezioni che trapelano dai vari media, soprattutto israeliani, si discuteranno fra le altre cose i piani per l'annessione della sovranità di Israele sulla scia del piano Trump, e una cosa voluta fortemente da Benjamin Netanyahu, alla quale si era accodato anche Benny Gantz, degli insediamenti ebraici in Cisgiordania e la Valle del Giordano. Immediata la presa di posizione da parte dell'Unione Europea l'ha fatto Peter Stano, portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell. Ha detto che l'Unione Europea comprende le esigenze di sicurezza di Israele, ma allo stesso tempo, se Israele insisterà con il suo piano di annettere parti della Cisgiordania occupata, l'Unione Europea agirà di conseguenza. A complicare la sempre tesa tensione, un soldato israeliano della Brigata Golani è rimasto ucciso oggi proprio in Cisgiordania durante un'operazione che l'esercito di israeliano stava compiendo nella città di Jenin. Sarebbe stato colpito da una grossa pietra scagliata dall'alto e, pensate, nonostante indossasse l'elmetto militare, non è bastato a salvare la vita, e in questo momento è scattata una caccia all'uomo e l'uccisione, l'attacco avviene dopo l'arresto di quattro ricercati palestinesi da parte proprio di quel comando della Brigata Golani. Poi l'avete sentito anche dal GR, in Russia c'è questa notizia che arriva dal portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Ha detto all'agenzia Interfax di essersi ammalato di Covid-19, ha immediatamente anche precisato che ha visto Vladimir Putin pensate, un mese fa. Naturalmente non è possibile verificare queste informazioni, ma è certo che anche la macchina della propaganda russa in questo caso stia cercando di tutelare le condizioni di salute, certe o presunte, anche di Vladimir Putin. E staremo a vedere, perché i numeri che arrivano dalla Russia non sono affatto rassicuranti. In Egitto, perché terroristi affiliati allo Stato Islamico hanno decapitato 3 giovani, rapiti altrettanti, tutti appartenenti alla tribù dei Terabin, che è una delle più grandi abitanti del Sinai, lo hanno riferito delle fonti locali della polizia egiziana, aggiungendo anche macabri dettagli. Le teste dei 3 decapitati sono state rinvenute su una strada principale. Da questi microfoni molto spesso oramai vi abbiamo dato conto del conflitto a bassa intensità che è corso ormai da 6 anni tra le forze di sicurezza e quella che è la cellula dell'ISIS in Egitto, che opera soprattutto appunto nella penisola del Sinai, si macchia di crimini orrendi, non solo quello che vi sto raccontando, ma anche traffico di esseri umani. La penisola del Sinai è un vero e proprio buco nero anche per la sicurezza egiziana e per Fatah al-Sisi, il reggente del Cairo, è ancora un grattacapo e a giudicare da come vanno le cose lo sarà ancora per tanto tempo. Questi i nostri dossier internazionali. Adesso Carmelo Lauricella, portaci a Kabul. Quello che sentite sono i concitati momenti della macchina dei soccorsi dopo l'ultimo attacco che è arrivato nel cuore di Kabul in un importante ospedale il cui reparto maternità è gestito da Medici Senza Frontiere. 13 persone morte, anche 2 neonati, pensate. L'operazione condotta dalle forze di sicurezza afghane è terminata da poco, lo ha riferito alla televisione afghana Tolo News il portavoce del Ministero dell'Interno afghano Tariq Aryan, aggiungendo che tutti i terroristi sono stati neutralizzati. Immediata la presa di posizione, come potete immaginare, di Medici Senza Frontiere. La malvagità dell'attacco all'ospedale di Dasht-e-Barchi a Kabul, hanno scritto, è colpire un luogo dove nascono i bambini e dove ogni giorno transitano per qualche ora le mamme solo per dare alla luce i propri figli. Va ricordato che i numeri sono molto importanti per questo ospedale, è uno dei pochi che ha un centro di maternità d'emergenza. Come ricorda lo stesso comunicato di MSF, nel 2018 l'equipe hanno assistito 15.000 parti, 1.300 neonati che in gravi condizioni erano stati ricoverati appunto in questa unità neonatale. 2 gli attacchi però in Afghanistan nel giro di pochissime ore, l'altro a Jalalabad, siamo nel distretto di Kewa. 24 morti e 68 feriti è per il momento il bilancio, ma è probabile che cresca ancora. La notizia arriva dal portavoce del governatore della provincia di Nangar, Atullah Khogiani, e mi perdoneranno per la pronuncia. 2 attacchi diversi quindi, il secondo un attacco suicida, il primo un comando armato. Pare sia certa la rivendicazione dell'ISIS, almeno del primo. Se così fosse, non più i talebani, non più Al-Qaeda, ma ISIS, Stato Islamico o Daesh se preferite, è il vero pericolo per l'Afghanistan, quello nuovo, quello che dovrebbe risorgere dalle ceneri dell'abbandono occidentale, dall'accordo di Doha USA-talebani e da quell'accordo che stenta a decollare tra i talebani e il governo di Kabul di Ashraf Ghani. A che punto siamo? Proviamo a fare il punto appunto con, scusatemi la ripetizione, Fabrizio Foschini, analista di Afghan Analyst Network. Fabrizio, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, ho battezzato bene la situazione? Forse ISIS adesso è il vero pericolo, oppure è una presa di posizione un po' fuorviante e fuorviata dagli ultimi eventi? Beh, Daesh, o appunto ISIS, come vogliamo chiamarla, riesce sempre a fare notizia data la particolare virulenza e letalità dei suoi attacchi, ma sono stati mesi pesanti in Afghanistan, nonostante il lockdown dovuto al Covid si sia esteso anche lì, almeno parzialmente, nonostante il mese di Ramadan, che almeno negli anni passati, fino ad alcuni anni fa, implicava una riduzione parziale delle violenze, e gli ultimi mesi hanno visto in realtà un intensificarsi del conflitto in Afghanistan. La voce che state ascoltando è quella di Fabrizio Foschini, è un analista, fa parte di questo network, Afghan Analyst Network, conosce molto bene quei territori, ci vive, ci studia, ci lavora, e quindi chi meglio di lui può aiutarci a capire che cosa sta accadendo in queste ore. Un po' di messaggi intanto che stanno arrivando, lo dicevo, Afghanistan, fallimento totale degli Stati Uniti e della NATO, così alcuni ascoltatori, qualcun altro. Quella parte di mondo non si è mai voluto stabilizzare, gli interessi economici e geopolitici sono immensi, ci guadagnano tutti tranne gli afghani, se ancora esistono, così Saverio, con tono assolutamente sconfortato. Fabrizio Foschini, ce la faranno i talebani se si dovesse raggiungere un accordo soddisfacente sia per Ghani che per i taleban stessi a contenere questa voglia di emergere, questo desiderio di violenza da parte dell'ISIS? Forse vogliono mettersi al tavolo delle trattative anche loro? Qual è il loro obiettivo e se possono essere in qualche modo limitati dai talebani stessi, secondo te? In questo momento, in rapporto alle posizioni del governo dei talebani, Daesh gioca sicuramente un ruolo da guastafeste, da spoiler. Naturalmente ha bisogno in questo momento in particolare di mandare forti segnali, vuole dimostrare, diciamo, di essere ancora presente ed attiva sullo scacchiere afghano, perché negli ultimi, diciamo, mesi, dalla fine dell'anno scorso fino agli arresti di queste ultime settimane, ha subito due colpi la sua organizzazione in Afghanistan, sia da parte dei talebani che da parte del governo e delle truppe NATO. Quindi c'è una necessità di mandare un forte segnale, e naturalmente la strategia comunicativa del Daesh in questo prevede attacchi sempre più violenti, sempre più ad alto livello, diciamo, anche ad alto livello di impatto emotivo. L'attacco di oggi, quello almeno di cui appare certa la matrice, sì, di Daesh, quello al reparto, alla clinica di Dasht-e-Bagchi a Kabul, è perfettamente inscrivibile in realtà in una strategia di lungo periodo del Daesh contro gli sciiti afghani, contro la, diciamo, minoranza religiosa all'interno dell'Islam afghano. Dasht-e-Bagchi è un sobborgo alla periferia ovest di Kabul, abitato maggioritariamente, se non unicamente, da Hazara sciiti. È un po' uno dei luoghi simbolo della comunità sciita in Afghanistan. È una periferia molto povera, insediata in maniera compatta appunto da famiglie Hazara che sono sfuggite alla povertà o al conflitto della parte centrale del paese, ed è stata colpita già varie volte negli ultimi mesi e anni da Daesh. Attaccare un ospedale non è più una novità, in realtà chiaramente il fatto che fosse un reparto maternità lo rende particolarmente crudele e raccapricciante, ma strutture e personale medico sono da tempo ormai finite nella lista dei bersagli del conflitto afghano. A questo proposito ricordo, perché non l'avevi fatto, mi pare che MSF è stata presa di mira in Afghanistan ormai da tutte le fazioni, sì, dai taleban che nel 2004 rivendicarono l'uccisione di 5 membri di MSF e la spinsero anche a lasciare temporaneamente il paese. Poi, in maniera più eclatante, qui forse lo ricordiamo tutti, è ancora più distruttiva dalle truppe NATO, che nell'ottobre del 2015 bombardarono e rasero al suolo il suo ospedale a Kunduz durante la riconquista della città che era stata occupata dai taleban. Quindi l'attacco di oggi, che sembra chiaramente ascrivibile a Daesh per il tipo di bersaglio e anche per la modalità, non rappresenta un'eccezione, purtroppo. Grazie mille. Per quello che riguarda... sì, prego, no, finisci Fabrizio, ero convinto che avessi terminato. Per quello che riguarda la posizione dei talebani nei confronti del conflitto, in questo momento i talebani sono impegnati a intensificare il conflitto contro le truppe governative. Sì. Stanno trattenendosi dal attaccare obiettivi internazionali in seguito agli accordi che menzionavi, sì, ma non hanno allentato la pressione neanche appunto durante il mese di Ramadan sulle truppe governative, nonostante stia procedendo, anche se molto a rilento, il primo, diciamo, negoziato previsto tra afghani, tra il governo e i talebani, ovvero il rilascio dei rispettivi prigionieri, però sta procedendo molto a rilento, sì, mentre su la possibilità di una negoziazione diretta si è ancora in alto mare. Il governo afghano sta piuttosto cercando di capire se tramite la creazione di un futuro concilio per la riconciliazione e le nomine che ne derivano, quindi la spartizione di poteri e di ruoli pubblici, riesce a risolvere l'impasse post-elettorale, ovvero la rivalità tra Ghani e Abdullah, il suo rivale, sì, delle elezioni, che potrebbe diventare, in un futuro accordo, diciamo, di co-governo, di power sharing, potrebbe diventare una specie di primo ministro con focus sulla riconciliazione. Però per adesso la strada per il negoziato tra talebani e governo sembra ancora lunga, e i talebani non allentano la pressione militare, che è la loro arma migliore nei confronti del governo. Eh certo, fanno parte di quella ampia categoria che osserviamo nei quadranti internazionali, che prima di sedersi al tavolo o mentre si siedono al tavolo delle trattative appoggiano la pistola sul tavolo. Grazie mille Fabrizio Foschini, come sempre la tua analisi lucidissima e precisa, analista di Afghan Analyst Network. Buona giornata e buon lavoro Fabrizio. Buongiorno a voi. E dalla voce di Fabrizio Foschini alla vostra, al 349-238-6666. L'Afghanistan NATO è stato un fallimento, ok, ma chi ha mai vinto? La storia insegna che è un paese incontrollabile, che si affitta, tra virgolette, lo scrive questo ascoltatore a caro prezzo, ma non si conquista e non si pacifica mai, non per niente è detto la tomba degli imperi. E poi aggiunge un'osservazione interessante: l'ISIS un pericolo, un'opportunità per evitarle il ritiro americano, perché è chiaro, sapete, dagli accordi di Doha i talebani hanno garantito di non fornire alcun rifugio né all'ISIS né ad Al-Qaeda, ma se l'ISIS adesso batte un colpo, e lo batte in maniera benefica e tragica, forse potrebbe portare l'amministrazione statunitense a riconsiderare almeno nei tempi il ritiro. Torniamo a quella che è l'analisi dei fatti tragici, ve li ricapitolo molto molto brevemente: un attacco kamikaze a Jalalabad e poi un attacco invece con un comando armato nel quartiere Azaro, dove sorge un ospedale gestito, il cui reparto maternità è gestito da MSF a Kabul. Lì uomini armati, un comando poi totalmente annientato, decine e decine di morti, decine di feriti in entrambi i casi. Probabilmente l'obiettivo era, fra le altre cose, anche la minoranza sciita, lo ricordava Fabrizio Foschini, per ridare complessità al quadrante afghano che cerchiamo sempre di raccontare, di illuminare tutte le varie sfaccettature, ma non è facilissimo. Allora lo facciamo con un afghano, è un esperto in sicurezza nazionale, insegna alla Cardan University di Kabul, lui è il professor Habib Wardak. A lui abbiamo chiesto quali sono le ragioni specifiche per attaccare un ospedale. Sentite perché è interessante. One thing that needs to be clarified is that... Beh, una cosa che deve essere puntualizzata è che secondo me si intravede una certa correlazione con quello che i dipartimenti dell'intelligence afghana hanno fatto negli ultimi mesi, e in particolare ieri. Hanno catturato il leader di Daesh che comandava le operazioni nell'intera Asia meridionale, e qualche settimana prima avevano catturato il leader di Daesh in Afghanistan, Abdullah Orakzai. The intelligence department of the Afghan government has been very, very effective. Quindi, nell'ultimo periodo, il governo afghano è stato molto, molto efficace nel rintracciare i rifugi di Daesh nel paese e nel catturare i leader del gruppo terroristico e nel sequestrare le loro risorse finanziarie. Potrebbe esserci un nesso, e Daesh potrebbe aver deciso di rispondere con questi attacchi per ritorsione. Inoltre, hanno attaccato una zona in cui la maggioranza della popolazione è di etnia Hazara. Inoltre, hanno attaccato una zona in cui la maggioranza della popolazione è di etnia Hazara, ossia di fatto gli sciiti dell'Afghanistan. E questo ci dice che vogliono fomentare un elemento di conflitto settario anche in Afghanistan. Se si guarda all'ideologia di Daesh, la sua mentalità fondamentalista wahabita consiste anche nell'attaccare gli sciiti. Basta considerare cosa hanno fatto in Iraq o in Siria. Forse stanno facendo di tutto per applicare quel modello anche in Afghanistan. Ecco perché vengono attaccate le moschee, ma anche le palestre di quest'area specifica, ossia quella colpita anche oggi, dove sorge l'ospedale di Medici Senza Frontiere. Sfortunatamente, ogni volta che colpiscono, attaccano dei civili. Civili che non hanno alcun mezzo per difendersi. Persone vulnerabili che costituiscono dei bersagli molto facili. La brutalità e la malvagità di questi attacchi sta raggiungendo un picco ed è molto triste. Questo è l'unico collegamento, l'unica ragione per attaccare un ospedale che posso supporre. I talebani hanno negato la loro responsabilità. Quindi adesso tutto si basa su chi si farà avanti sugli attentati di Jalalabad e Kabul e rivendicherà gli attacchi. So now it's really anybody's call who comes up and takes the responsibility. Questa è l'analisi di Habib Wardak, l'abbiamo sentito poche ore fa, come potete immaginare, complice anche il fuso orario, la complessità, il caos in quei momenti di attentato. Appena abbiamo sentito la sua voce, abbiamo cercato di cogliere la sua analisi e subito dopo è arrivato appunto quella che è stata la rivendicazione da parte dello Stato Islamico. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Qualcuno suggerisce anche un libro, L'Afghanistan è una ferita aperta all'Occidente, un ottimo libro di Gastone Breccia che non conosco, confesso, cerca di chiarire come sia anche una sconfitta, concetto che abbiamo ribadito tante volte qui nel Luogo Lontano con autorevoli analisti, oltre 20 anni di impegno dell'Occidente e decine di soldati anche italiani che sono caduti per cercare di mettere insieme un paese apparentemente fragile. Lo è fragile quantomeno nelle istituzioni, nella logica che abbiamo noi occidentali, quella lente che utilizziamo anche per osservare luoghi molto lontani. Alla fine, come ricordava un altro ascoltatore, è stata la tomba di molti imperi, sono combattenti formidabili, un grandissimo senso di dignità, di orgoglio, e non sempre tollerano e con facilità la presenza straniera. In tanti lo hanno capito e ne hanno fatto le spese in quelle montagne. Poi non c'è solo quello, non c'è la guerra, non ci sono questi nerboruti combattenti, c'è anche tanta cultura, c'è anche tanta vitalità nella Kabul, e non soltanto, che conoscevamo, purtroppo offuscata da questi ultimi eventi. Vedremo se la politica afghana riuscirà ad avere la maturità per sconfiggere anche queste dinamiche settarie che vediamo sempre presenti. Torniamo ai noi, al secondo attacco. Difficile stabilire quale sia quello più orrendo, se quello a un reparto maternità o a quello a un funerale. Come si colloca questo attacco? Lo abbiamo sempre chiesto a Habib Wardak. Sentite. The Jalalabad attack is not a Shia population, but you have to understand this was the area where you had. L'attacco di Jalalabad non ha colpito una popolazione sciita, ma bisogna considerare che questa era l'area in cui Daesh era predominante. La loro base di fatto era proprio a Jalalabad. Shia population Jalalabad on contrary is Jalalabad è a maggioranza sunnita e la roccaforte di Daesh erano le città di Jalalabad, le province di Nangarhar e Kunar e le zone vicine. Ora, se parliamo della risposta delle forze afghane relativamente all'attacco all'ospedale, dobbiamo considerare che sono intervenute le forze CRU. Parliamo di forze di pronto intervento che sono le migliori disponibili nel paese. Erano le unità presenti durante l'attacco all'università americana in Afghanistan di qualche anno fa e sono intervenute in tutti gli scenari in cui si verifica un attentato suicida con esplosione seguito da uomini armati che uccidono civili o tentano la cattura di ostaggi. Take hostages and then you have the CRU unit, the crisis response unit. Le forze CRU dell'esercito afghano, unità di risposta alla crisi, sono davvero le migliori che abbiamo nel paese e ritengo che nell'arco di qualche ora sferreranno attacchi multipli capaci di neutralizzare i terroristi e salvare una certa quota di ostaggi, decine o forse centinaia. Ci sono già diverse voci secondo le quali almeno 40 persone sarebbero già in salvo. Altre parlano di 70 persone salvate. And women which are rescued by this very crisis response unit. Questa è la voce di Habib Wardak, esperto in sicurezza, docente alla Cardan University di Kabul, dalle voci di Kabul, con la voce di Kabul. Chiudiamo questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, andiamo a sentire come va la borsa e poi apriremo una seconda pagina tutta dedicata a come i cittadini nel mondo hanno percepito la risposta all'emergenza Covid da parte dei loro governanti. State con noi. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Proviamo a ragionare sul concetto del Covid-19 come acceleratore di crisi, stress test, scusatemi, per i partiti politici, per i sistemi politici, per quelli sanitari, per le democrazie, in sostanza un banco di prova per la tenuta politica e non solo di tanti paesi nel mondo. A 2 mesi dallo scoppio dell'emergenza, tra fake news e accuse di complotti internazionali, proviamo a tirare un po' le fila, partendo da cosa? Beh, dalla percezione che proprio i cittadini hanno rispetto alla presa di posizione dei loro governi quanto all'emergenza coronavirus. I cittadini sono soddisfatti di come i loro governi hanno gestito questa crisi? Sorprendentemente pare di sì. Questo studio lo ha condotto l'Australian Institute, che ha realizzato un sondaggio tra i cittadini di Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. I ricercatori hanno registrato un giudizio in genere abbastanza positivo rispetto a come i governi hanno gestito fino adesso la crisi. Naturalmente all'interno di questa generalizzata fiducia ci sono delle differenze. I livelli più elevati si registrano in Nuova Zelanda, l'89% dei neozelandesi ha espresso la propria fiducia nei confronti del governo, segue l'Australia, 78%, gli Stati Uniti vedono i livelli più bassi nei confronti dell'esecutivo, più bassi di fiducia, il 57% degli intervistati ha espresso parere positivo. In relazione ai dati che emergono da questo rapporto, sembrerebbe assistere a un ritorno della centralità dello Stato. Può essere un periodo legato strettamente a questa emergenza sanitaria, oppure una tendenza che dobbiamo aspettarci si consoliderà anche nel prossimo futuro? L'abbiamo chiesto a Bill Brown, ricercatore dell'Australian Institute, che è tra i redattori di questo interessante sondaggio e rapporto. Sentite cosa dice. It's certainly the case that you see trust in government tend to rise in times of crisis. Sicuramente la fiducia nel governo tende ad aumentare in tempi di crisi. Questo fenomeno si osserva particolarmente in tempo di guerra. È quindi chiaro capire il perché le persone dipendano maggiormente dal governo e abbiano anche maggiori aspettative dal governo stesso in questo particolare periodo storico. Penso inoltre che il governo si comporti diversamente durante un periodo di crisi. Generalmente si assiste infatti a una forte pressione da parte dell'opinione pubblica sui politici affinché ridimensionino drasticamente o addirittura evitino completamente lo scontro politico e gli attacchi contro i loro avversari in favore invece di una cooperazione sinergica. In Australia, ad esempio, abbiamo visto amministrazioni statali e locali cooperare in maniera efficace con il governo federale anche quando esiste una netta contrapposizione politica. Il fatto quindi che le persone si fidino maggiormente del governo in questo contesto è un fenomeno abbastanza naturale. Contemporaneamente, il governo risulta essere più responsabile in queste circostanze, o semplicemente si adopera con più forza per dimostrare la propria affidabilità. È probabile che il cambiamento del rapporto tra l'individuo e lo Stato non rimanga limitato a questa emergenza sanitaria. Credo invece che potrà avere effetti anche nel lungo periodo. Molte delle argomentazioni sul perché il ruolo del governo debba essere ridotto o limitato scompaiono in questo periodo storico. Sono sempre di più i governi che si impegnano a perseguire programmi di ingenti investimenti e spesa pubblica. Diversi esecutivi sono intervenuti per correggere i problemi del mercato, sospendendo alcune delle più grezze e ciniche logiche del sistema di domanda e offerta, sostenendo per esempio il valore dell'offerta delle aziende, che invece si troverebbero a fronteggiare una drastica riduzione dei prezzi se si mantenesse un regime di totale liberismo economico. Credo quindi che questa crisi cambierà la relazione tra il privato e il pubblico anche a lungo termine. In che modo questa relazione cambierà è però ancora poco chiaro, perché i governi devono ancora decidere come faranno a rispondere alla crisi nel lungo periodo. I governi hanno il potere di decidere se infilarsi o meno nello spazio lasciato libero dal settore privato, sostenendo le economie. Questa decisione, quindi, è la chiave di come la relazione cambierà nel lungo periodo. Questo è lo scenario che tratteggia Bill Brown, ricercatore dell'Australian Institute, dopo un sondaggio condotto in 6 paesi, un campione di 1000 cittadini in ognuno di questi 6 paesi, con un margine di errore sostenuto dall'Australian Institute di circa il 3%, quindi ragionevolmente attendibile. Lo avete sentito, cambierà il rapporto tra cittadini e stati. Con quali conseguenze? Del futuro si è occupato anche il prossimo ospite, che introduco immediatamente, Vittorio Emanuele Parsi, insegna relazioni internazionali alla Cattolica e dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dello stesso Ateneo. Buongiorno professor Parsi, ben ritrovato. Buongiorno a voi, ben ritrovati a voi. Si è confrontato il professor Parsi in queste settimane di lockdown e di grandi riflessioni proprio con il futuro. Ha infatti appena pubblicato Vulnerabili, come la pandemia cambierà il mondo, tre scenari per la politica internazionale. L'editore è PM. Gli scenari futuri parliamo tra pochissimo, professore. Prima però le chiederei una ricetta, nel senso, quali sono i fattori che determinano maggiore o minore fiducia, secondo lei, da parte dei cittadini nel mondo rispetto all'operato dei loro governi? Beh, intanto credo che l'efficacia che è stata avvertita rispetto alle decisioni assunte giochi un ruolo importante. Sì. Accanto a questo però anche il riconoscimento della gravità della situazione. Allora vediamo, secondo me, per esempio, come mai Macron sia così in difficoltà in Francia, perché sui due lati ha fatto fatica. Sì. E vediamo invece, per esempio, come governi che pure sono così diversi e che hanno affrontato in maniera differente la pandemia, come la Germania e l'Italia, abbiano buone performance. Sì. Abbiano un buon sostegno da parte dell'elettorato. Poi conterà, ma questo dopo, secondo me, la capacità di agire per allontanare lo spettro che tutti, i sondaggi che avete pubblicato, sì, lo attestano, hanno nei confronti di una disastrosa stagione economica che potrebbe arrivare. Sì, e lì diciamo quello è lo scenario che più preoccupa anche chi sta al governo, perché la sfida è enorme. Da un lato si è dovuto gestire l'emergenza sanitaria, da un altro guadagnare la fiducia e continuare a consolidare la fiducia da parte dei cittadini. Anche noi cittadini ci dobbiamo mettere del nostro per uscire da questa crisi, quindi è evidente che una buona leadership aiuta questo processo. Poi però bisogna far ripartire l'economia sostanzialmente in tutto il mondo, e come avete sentito dal professor Vittorio Emanuele Parsi, lo ricordo, dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica, è autore di un interessante volume appena sottolineato. Professor Parsi, stia con noi perché le faccio sentire ancora la voce di Bill Brown su un altro punto, perché come già dicemmo qualche tempo fa citando studi dell'Australian Institute, la fiducia nel governo e nella classe politica più in generale sta in buona sostanza emergendo come elemento chiave della sicurezza nazionale. Glielo faccio spiegare da Bill Brown e poi lo commentiamo insieme. So what the Australia Institute's international polling found very strongly was a relationship. Ciò che l'Australian Institute ha riscontrato in questo sondaggio a livello internazionale è uno strettissimo rapporto tra la fiducia che i cittadini hanno nel governo e quanto efficace è stata la risposta del governo stesso alla pandemia di Covid-19. Si può analizzare questo dato da diverse prospettive. Potrebbe indicare infatti come più la popolazione si fida del governo, migliore è la gestione generale della pandemia, perché magari i cittadini seguono più efficacemente i consigli medici che vengono dati loro. Oppure si potrebbe anche dire che migliore è la gestione della pandemia, maggiore è la fiducia che i cittadini sviluppano nei confronti del governo, perché quest'ultimo dimostra di essere affidabile ed efficace nella sua azione. Ad ogni modo, è interessante esplorare più in generale le implicazioni che si creano in relazione al concetto di sicurezza nazionale rispetto al fatto che un governo che gode della fiducia dei suoi cittadini può proteggerli meglio, o analogamente, meglio un governo protegge i suoi cittadini più i cittadini si fidano e fanno affidamento al proprio governo. Stiamo quindi assistendo a un fenomeno di rafforzamento delle istituzioni statali, una sorta di sinergia che permette a un paese di essere più forte. Penso che sia per questo che più in generale i paesi debbano riflettere a come si prendono cura dei loro cittadini, a come rispondono alle minacce e a quanto i cittadini si fidano della risposta che lo Stato propone di fronte a una specifica minaccia. Se un paese, o più precisamente il governo di un paese, viene visto come una sorta di minaccia ai propri cittadini, questo aspetto indebolisce fortemente il paese stesso nel lungo periodo. Questo fenomeno è evidente ogni volta che si discute rispetto a modelli tradizionali di sicurezza nazionale, dove lo Stato persegue un potere e un controllo sempre maggiore, che può essere anche usato contro i propri cittadini, oltre che contro coloro che realmente rappresentano una minaccia per la propria popolazione. Quindi essere in grado di gestire questo potere è di particolare importanza. Penso che la crisi da Covid-19 abbia avuto un enorme effetto nel far riconsiderare alle persone il concetto di sicurezza nazionale. In una certa misura, la pandemia globale ha dimostrato la fragilità e il rischio che possano saltare le tradizionali catene di approvvigionamento, che si può realmente finire senza cibo sugli scaffali dei supermercati se determinati processi si interrompono. Quindi, in un certo modo, quello che è successo credo che aiuterà le persone a pensare più in generale alla sicurezza nazionale, non solo in termini militari. Contemporaneamente, c'è stata una presa di coscienza rispetto al fatto che le malattie hanno il potenziale di uccidere tante persone e influenzare pesantemente anche le vite delle persone che sopravvivono. Questo aspetto credo provocherà importanti riflessioni da parte dei cittadini riguardo a quali siano le minacce del nostro tempo e soprattutto rispetto all'aver trascurato alcune questioni sanitarie e sociali a spese di altre preoccupazioni che stanno dimostrando di essere più remote o meno pericolose. Nelle parole di Bill Brown, la risposta all'emergenza coronavirus come collante e fattore di sicurezza nazionale. Tra pochissimo lo commentiamo col professor Vittorio Emanuele Parsi. Adesso la viabilità è per l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano continua il dialogo con Vittorio Emanuele Parsi, insegna relazioni internazionali, ha pubblicato un libro che va a esplorare i scenari che vi saranno per la politica internazionale dopo, speriamo, il Covid-19. Covid-19 che può essere, se ben gestito, un formidabile collante e fattore di sicurezza nazionale. Un breve commento su questo, professor Parsi, poi le faccio sentire un altro sondaggio di Ipsos che ha dato i voti sostanzialmente ai leader europei. Allora, sì, sostanzialmente mi faccio ricorrere a questa metafora, no? Pensiamo a una nave su equipaggio, una nave concepita per navigare ed è concepita per proteggere l'equipaggio, non perché l'equipaggio debba essere portato avanti e indietro per il mare, ma perché se l'equipaggio è protetto, la nave è efficace. Allora, quando noi pensiamo al rapporto che c'è tra salute, sicurezza nazionale e tenuta del sistema politico, ma anche salute e ripresa economica, dobbiamo pensare che per poter avere un'efficace tenuta dei sistemi politici, un'efficace ripresa economica, dobbiamo essere in grado di proteggere, di garantire la salute dell'equipaggio che è la popolazione di un paese, che sono gli operatori di un'economia. Perché in questo modo, solo in questo modo, possiamo mettere a disposizione del sistema sociale politico e del sistema economico tutte le risorse di cui ognuno di noi singolarmente è dotato ed è portatore. Quindi la capacità della politica è non opporre queste due logiche, ma riuscire a portarle neanche in mediazione, ma a sistema, non in mediazione, a sistema. E con Vittorio Emanuele Parsi, allora andiamo a esplorare questa metafora che trovo icastica, la trovo forte, mi piace. Sostanzialmente lei, professore, esclude che si possa in questa nave, appunto dentro la metafora, inserire il pilota automatico. La nave deve essere integra, ci vuole qualcuno al timone, l'equipaggio, tutti i membri dell'equipaggio devono stare bene, soltanto così le più perigliose onde delle relazioni internazionali potranno essere affrontate. Professor Parsi, lei prima, con molto garbo e in punta di penna, ha dato i voti al presidente Macron. Lo ha fatto anche Ipsos, sempre andando a valutare quella che è stata la reazione e la fiducia dei cittadini rispetto alla questione Covid-19. Sentite un po' di voti fatti dal sondaggio di Ipsos. We can be proud of what we have achieved. Low numbers of new cases. Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. We must stay alert. We must continue to control the virus and save lives. Alors, étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. When we got no choice, all the girls and boys. Emmanuel Macron bocciato. Jacinta Ardern, primo ministro neozelandese, promossa a pieni voti. Sufficienza piena per Angela Merkel e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, mentre Boris Johnson e Giuseppe Conte si fermano a un passo dalla sufficienza. Dare i voti ai rispettivi capi di Stato nella gestione dell'epidemia di coronavirus sono stati i cittadini di Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Austria, Svezia e Nuova Zelanda. Intervistati lo scorso aprile dall'Istituto di Ricerca Ipsos e dal Centre d'Études de la Vie Politique Française, i più scontenti di come il proprio governo ha gestito l'epidemia sono i cittadini francesi. Solo il 38% degli intervistati è soddisfatto di come l'esecutivo di Emmanuel Macron ha gestito l'emergenza coronavirus, mentre 9 neozelandesi su 10 sono soddisfatti dell'operato del loro governo, e in Austria il governo è stato promosso dall'84% dei cittadini. Soddisfatti anche il 74% dei cittadini tedeschi, il 70% degli svedesi, il 61% degli inglesi e il 55% degli italiani. Negativo anche il giudizio sull'operato dell'Unione Europea. Solo in Germania il 25% degli intervistati si è detto soddisfatto delle modalità con cui le istituzioni europee hanno gestito la crisi del coronavirus, mentre in Italia e Francia la percentuale crolla sotto il 10%. Questa la fotografia che ci arriva da un altro sondaggio, il primo era dell'Australian Institute, il secondo che appunto arriva da Ipsos, fatto in collaborazione col Centre d'Études de la Vie Politique Française. E con Vittorio Emanuele Parsi proviamo a sfregare un po' la sfera di cristallo, perché diciamo più facile è dare i voti all'attuale gestione, più difficile immaginare il futuro che verrà. Nel suo ultimo libro il professor Parsi ha provato a farlo, Vulnerabili, come la pandemia cambierà il mondo, tre scenari per la politica internazionale, edito da PM. Brevemente, abbiamo tre minuti, quali sono i tre scenari e come si possono costruire, se fra questi tre scenari, professor Parsi, ce n'è almeno uno positivo? Allora, ce ne sono due che sono scenari negativi, che sono trappole concettuali, per così dire. Una tendenza alla restaurazione, quindi sostanzialmente immaginarsi che la pandemia sia stato un incidente di percorso grave, ma si ritorni al mondo come era prima di gennaio. Il mondo prima di gennaio non è che funzionasse perfettamente, mi pare. L'altro è quello di chiudersi, di deglobalizzarsi nell'illusione che adesso finalmente appunto faremo da soli, faremo meglio perché anche l'Europa ci ha tradito e via discorrendo, quindi ci ritroveremo ancora meno attrezzati per affrontare sfide che comunque esistono a prescindere dalle istituzioni politiche che abbiamo, appunto le pandemie, le migrazioni, il riscaldamento climatico. E poi c'è uno scenario di rinascimento che dipende innanzitutto da noi, nel senso, l'abbiamo visto con la pandemia, abbiamo avuto, ci hanno detto state a casa, noi l'abbiamo fatto e facendolo ci siamo protetti, cercando di proteggere gli altri abbiamo ottenuto il risultato di essere più protetti noi stessi, nell'attesa che la scienza ci dicesse qualcosa di diverso da quello che dicevano a Pericle nel V secolo avanti Cristo di fronte alla peste. Intanto ci siamo portati avanti, questo dovrebbe illuminarci sul ruolo che abbiamo, quanto possiamo noi fare la differenza e quanto la percezione della nostra, corretta percezione della nostra vulnerabilità, debba farci chiedere alla politica molto di più, debba farci chiedere uno scenario ambizioso, perché siccome siamo fragili, abbiamo bisogno, o perché siamo vulnerabili, abbiamo bisogno di una struttura che non ci protegga passivamente, ma che ci consenta di dare di più, di tirare fuori tutte le nostre potenzialità. E mi faccia dire anche una cosa sui sondaggi. Sì. Sono interessanti, ma e devono essere contestualizzati. Pensate quel basso voto di Macron avendo una coalizione fatta da un partito solo che è il suo, in un sistema amministrativo efficiente e con l'abitudine, diciamo, e con un potere centrale indiscusso. pensate alla risicata maggioranza di Conte, con la maggioranza fatta litigiosa, sì, con il sistema burocratico che abbiamo, sì, e con lo sbilancio istituzionale. Sì. Ancora una volta, cosa ha fatto la differenza? Un minimo di indicazioni precise e poi l'attitudine nostra di metterci in prima in gioco, fare, cioè cercare di cambiare la realtà. Questo l'abbiamo fatto come italiani e il risultato si è prodotto in attesa che segua tutto il resto. Con questo accorato appello e anche elogio della nostra risposta al Covid-19, io saluto il professor Vittorio Emanuele Parsi, grazie mille per essere stato con noi e cedo la parola immediatamente a Carmelo Lauricella. Quale naturalmente obbedisco, ringraziando tutta la squadra in nessun luogo e dandovi appuntamento per domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.